Reunion. Un romanzo di Dario Vergari. Capitolo 30. You are what you eat. Eat well. Aveva guidato e poi guidato ancora fino a vedere la luna sorgere e calare per fare posto all'alba. Infine, esausto, aveva posteggiato la Ferrari. Non sapeva esattamente dove fosse arrivato. Era uno dei numerosi borghi medievali che costellavano quella zona. Mura merlate che sporgono ad alture affacciate su morbidi valli. Frugò nel vano portaoggetti. Gli occhialoni scuri erano lì. Quelli e il cappellone sarebbero stati sufficienti. C'era anche una parrucca rasta. Fanculo, disse sbattendola dentro. Che errore era stato tornare nella città. Cosa aveva sperato di trovare? Lui era il senza nome, esemplare unico. Sarebbe vissuto separato dal resto del mondo fino alla fine. Che fosse in mezzo alla folla non avrebbe fatto differenza. Mascherato o meno, si sarebbe comunque sempre sentito solo. Lo avrebbero sempre guardato da lontano. Sarebbe stato un alieno, come sempre era stato. Sebbene la prospettiva ora si fosse ribaltata. Un tale stava passando di là. Trotterellava pingue e baldanzoso. Pareva estremamente compiaciuto della propria esistenza in vita. Drago non riusciva a identificare esattamente che cosa gli desse fastidio, ma quella vista lo innervosì. Forse perché l'essere gli dava l'idea di un pallone gonfiato. Camminava protendendo con orgoglio la pancia, evidente frutto di ghiotte libagioni. Immagine precisa di un apparato digerente che spargeva entropia sulla terra senza arricchirla di niente altro che i suoi scarti biologici. Uno di quei tipi, soddisfatti della propria dozzinale e inutile esistenza, peraltro scambiata per qualcosa di eccezionale. Uno di quelli che avrebbe fatto senz'altro qualche battutina maligna e riso alle spalle di Ozelot e di quelli come lui, se solo li avesse visti passare per strada. Uno di quelli che alla resi gli avrebbe volentieri dato fuoco, con loro dentro. E io, proprio io, ho voluto giocare a fare il Dio misericordioso per rendere migliore la vita di questi esseri inutili? Guardali! Come stanno bene ora, come godono senza avere mai mosso un solo dito per meritarselo. Cosa sarebbero ora senza di me? Tubi di carne putrida che vagano ciechi al solo scopo di ingurgitare e defecare, parassiti della terra. Cosa hanno fatto per meritarsi questa bella vita, per guadagnarsela? Che schifo, come ho potuto essere così cieco? Untermensch. Ecco cosa sono. Cosa speravo di concludere, lasciando in vita questi inetti, idioti, incapaci di imparare un cazzo. Senza di me starebbero ancora scannandosi tra di loro, con le loro guerre, la loro stupidità, senza bellezza. Eppure ancora non sono contenti, bastardi. Si lamentano i parassiti. Vogliono di più. Quando gli passò accanto l'irritante tubo di carne stava parlando al telefonino. Persino la sua voce faceva venire voglia a Drago di prendergli la testa e sbatterla contro un muro. Era una voce aspra, con un tono borioso che mal si conciliava con l'aspetto insignificante. Il greve accento regionale creava in quel fastidioso essere un connubio di arroganza e ignoranza. Discorreva di cibo come se l'unica ragione del suo essere in vita fosse abbuffarsi. Raccontava al suo interlocutore di raffinati banchetti. Fremeva di malcelata libidine parlando di sarde e finocchio selvatico. Il disgusto di Drago si intensificò senza che lui facesse niente per frenarlo. C'era un errore che doveva essere corretto. Aprì il vano portaoggetti e recuperò il Devil. Va bene essere un dio, ma certe volte, con certi ordini, era meglio essere sicuri. L'essere inutile si era fermato pochi metri più avanti. Gesticolava che pareva un direttore d'orchestra. lo udiva cianciare senza posa. Il timbro nasale della voce del grassone lo irritava. Il cappello pesante e sudato gli pizzicava la fronte. Scese sbuffando dall'auto, buttò a terra il cappellone e si tolse gli occhiali. Il tizio gli dava le spalle. Si era lanciato in una descrizione entusiasta di una pietanza a base di capperi e acciughe, ma non capperi qualsiasi, solo quel particolare tipo di capperi coltivati solo nella zona di... Drago gli tamburellò sulla schiena. Fu un piacere vederlo girarsi e crollare a terra in ginocchio con le mani giunte davanti a sé. «Mangiati!» disse Drago nel microfono del Devil. Il ciccione sembrò non capire. Drago si mise in bocca le dita di una mano, scoprendo i canini e gli incisivi in un morso simulato. «Mangiati!» ripeté, fissandolo con un sorriso da consumato politico e annuendo mentre questi si portava le dita paffute alla bocca. Dovette tuttavia allontanarsi quando, dopo il primo sangue, udì lo scricchiolio delle falangi contro i denti. Non aveva neanche fatto colazione, gli girava la testa. Doveva rimediare. Un cappuccino, e se magari era fortunato anche qualche pizzetta rossa per accompagnarlo. E ci sarebbe stato bene anche un bel bicchiere di acqua fresca. Era sicuro di avere visto l'insegna di un bar arrivando in paese. Raccolse il cappellone ignorando i rumori umidi e molesti. Il rombo della testa rossa li cancellò una volta per tutte. Il locale era deserto. Vialeggiava aria di chiusura a tempo indeterminato. Niente pizzette e cappuccino. Al massimo un bicchiere d'acqua di rubinetto. Non si sarebbe stupito se qualche zombie fosse sbucato fuori all'improvviso dal congelatore dei gelati. Girò attorno al bancone per vedere cosa c'era rimasto. Il suo stomaco brontolava e ruggiva al pensiero del cibo. Trovò solo alcune scatolette di tonno e, miracolo, 2 lattine di coca. Si sedette a un tavolino accanto alla finestra e strappò la linguetta che apriva la scatoletta di tonno. Che pasto triste, solitario come quello di un qualsiasi impiegato. Probabilmente ancora più sconsolato perché senza nome non aveva colleghi con cui condividere momenti di vicinanza. Qualcosa gli toccò la gamba facendolo sussultare. Un gatto nero sbucato da chissà dove lo osservava in silenzio. «Ciao, amico felino, vuoi il tonno, vero?» Ma il micio non degnò il tonno di uno sguardo e continuò a fissare proprio lui. Ocelot sapeva che, a differenza del felino, sarebbe presto svenuto se non avesse mangiato qualcosa. Afferrò con le dita un trancio di tonno e lo ingurgitò rapidamente. Una lunga sorsata di coca calda gli pompò in corpo energia istantanea e coprì il sapore di pesce polveroso. Il micio era ancora lì. Stava osservando l'umano con ironico e rumoroso interesse. Aveva messo in moto quel particolare meccanismo sonoro che rende i gatti ancora più strambi di quanto appaiono a prima vista. Le fusa calde liquefacevano il nodo nero di tensione che la coca e il cibo avevano lasciato intatto. Poi, d'un tratto, il micio gli balzò sulle gambe e strofinò il muso su di lui. L'aria rombava diffusa. Lo accarezzò sulla testa e il gatto si accucciò soddisfatto. Poi fece una cosa che mai Drago aveva visto prima e che mai più rivide. Il gatto lo guardò diritto negli occhi e, senza distogliere lo sguardo, tirò su da un lato una parte delle labbra e gli sorrise. O forse sogghignò. Drago non riuscì a capirlo, incredulo per quello che aveva davanti agli occhi. Il felino restò con i denti scoperti in un sorriso asimmetrico per alcuni assurdi secondi. Poi si ricompose, tornò a essere un qualsiasi micio nero che faceva fragorose fusa a quello che considerava un suo simile. «Sono ancora fuori fase», si disse Drago. ma allo stesso momento si rendeva conto che davvero non poteva negare di aver appena visto un gatto sorridergli. Era una specie di messaggio divino. Per un attimo si sentì osservato, come se tutto ciò che aveva fatto non fosse passato inosservato ai piani alti, ma non provava disagio. Senza dubbio gli era stato recapitato un messaggio di approvazione. Il tonno era finito. La coca aveva esalato l'ultima bollicina. Il meticoloso, con un tonante rutto, terminò la colazione. Silenzioso il micio saltò a terra e con la coda a punto esclamativo si diresse verso l'uscita senza voltarsi. Drago si alzò e lo seguì, ma appena uscito dal locale il micciolino era già scomparso. Per un momento sperò di trovarlo nella testa rossa, ma no, l'oscuro messaggero era svanito. Quando ripercorse la strada da dove era arrivato e vide un ammasso contorto di membra e sangue, si rammentò del tizio di poco prima. Rallentò fino a fermarsi e scese a osservare il corpo. A quanto pareva, il vorace era riuscito a mangiarsi la mano destra fino al polso. Non esisteva più un solo osso integro, solo frammenti ancora attaccati a lembi di pelle e muscolo, tentacoli di calamaro ciondolanti. Poi aveva assaggiato la sinistra, c'erano impronte scarlatte di morsi sulle dita, ma aveva rinunciato a mangiarle per concentrarsi sulla parte molle del palmo della mano. Forse si era fatto male ai denti. Da lì aveva proseguito a spolpare e a sfilacciare tutto l'avambraccio e più su il bicipite sinistro, fino a esporre il bianco rosicchiato dell'omero. A terra una pozza di vomito in parte ricoperta di sangue. Frammenti di denti e schegge di falangi affioravano dal liquido. Gli erano rimasti incastrati in gola, ma non si era fermato. Li aveva rigurgitati per continuare ad azzannare e a trangugiare finché l'anatomia glielo consentiva, fino ad accasciarsi esangue. I denti, ancora digrignati, serravano in una morsa un brandello di polpa di bicipite. Ottimo! La creazione continua. Anche la danza di Shiva deve continuare. Altro che riportarli indietro. Come avevano potuto pensare che volessi resuscitare i morti? Gli ho dato tutto e ancora elemosinano. Che cazzo vogliono da me? Cosa ci vuole per essere felici? Risalì in automobile e sgommò, lasciando un centimetro di rabbia e di pneumatico sull'asfalto. Uscì dal paesino discendendo i tornanti del colle, trattenendo il piede sull'acceleratore. Ma appena arrivato al rettilineo, in una manciata di secondi, aveva raggiunto i 150 km all'ora. Il gatto nero gli attraversò la strada in perfetta rotta di collisione. Drago fece l'unica cosa che non doveva fare. Inchiodò il piede sul pedale del freno. L'inevitabile testacoda gli fece rivivere la sensazione di quando era sulle autoscontro del Luna Park. Il mondo si scompose in un dipinto cubista mentre ruotava. Il cielo e la terra si azzuffavano in un vortice colorato. Ci fu un tonfo e si ritrovò a mezz'aria. L'erba sotto di lui si avvicinò troppo rapidamente e rimase senza fiato quando atterrò. Non si mosse per un po'. Non riusciva a vedere niente, anche se era sicuro di avere gli occhi aperti. Era sdraiato in una nebbia grigia, informe. Le sirene erano nella sua testa? Non capiva. Tutto ronzava e si agitava. Lentamente fece una ricognizione mentale delle sue sensazioni. La spalla lo stava prendendo a calci. Il ginocchio ululava. Sentiva colare il sangue dalla ferita nella mano. La testa ospitava un numero di elefanti intenti a ballare il tip-tap sul suo povero cervello. Cercò di alzare la testa, ma i pachidermi non erano d'accordo e si buttarono tutti insieme a sedere sul divano cerebrale, costringendo Drago ad appoggiarsi di nuovo a terra. Le pulsazioni erano colpi di gran cassa in quattro quarti, i motorhead che suonavano overkill. Si lasciò andare. Ascoltò la canzone fino alla fine quando le pulsazioni divennero meno martellanti e poté finalmente scorgere una grande chiazza rossa attraverso il velo grigio. La macchia si trasformò lentamente nei rottami della Ferrari accartocciati attorno a un albero. Poi emersero il verde e l'azzurro e finalmente poté udire le prime cicale frinire, indifferenti all'ordalia avvenuta. Azzardò un movimento e non provò troppo dolore. Si mise a sedere con la cautela di un fachiro su un letto di chiodi e trasse lenti respiri, sempre più profondi. Il velo sui sensi era svanito. «Gatto di merda, scemo! Per poco non mi ammazzavi!» C'era una striscia rossa sull'asfalto. Partiva diversi metri indietro, arrivava fino a lui, per poi oltrepassarlo e finire accanto ai rottami. La seguì senza zoppicare troppo e trovò una striscia di pelliccia nera ben appiccicata a uno pneumatico. Aveva preso sotto il felino proprio mentre inchiodava e lo aveva trascinato via con sé. Stavolta non rideva. Vide un campo di gran turco che affiancava la strada e scendeva lungo i fianchi della collina. Raccolse cappellone e occhiali scuri e si avviò verso i filari. Poi, con una rapida piroetta, si girò e tornò alla macchina. Nel vano portaoggetti c'era la parrucca rasta. Se la infilò in tasca. Sembrava un mazzo di code di gatto che gli uscivano dai pantaloni. Infine entrò nel giallo-verde delle piante. Nonostante il naso che pizzicava e gli occhi che bruciavano, era bello tornare a camminare e a respirare nella natura. Aveva passato troppo tempo in città, cercando compagnia fra la specie sbagliata di esseri viventi. Gli tornò in mente Angkor Wat, la quiete colma di vibrazioni vitali, gli odori e i sapori alieni, l'indescrivibile cacofonia armonica che la natura cantava in ogni dove. E chi non vorrebbe tornare ad Angkor Wat? Ma sarebbe stato come scappare, si sarebbe trovato al punto di partenza. Qual era? Gli sembrò di essere in piedi su un blocco di ghiaccio che se ne va alla deriva, senza un posto dove tornare e senza un posto dove andare. Seguì il pendio attraversando un universo di mais. Milioni di minuscoli esseri videro un dio gigante attraversare il loro universo, devastando mondi a ogni passo. La brezza portava a tratti odori di cibo che, seppur vaghi, acuivano l'appetito che il tonno e la coca gli avevano lasciato. Il vento cambiava continuamente direzione e non c'era modo di capire da che punto provenisse quell'odore. Gli steli di Gran Turco non offrivano un indizio su ciò che lo circondava. L'unica bussola che aveva era il terreno sotto i piedi che digradava uniformemente verso sud. C'era un che di psichedelico nella geometria dei filari, come in un disegno di una illusione ottica. Camminarci in mezzo poteva trasformarsi in perdersi per ore in un mondo a due dimensioni. Si fermò e subito il silenzio dei suoi passi lo sommerse. Non aveva piani per quella situazione. Sarebbe dovuto essere stato un viaggio triste ma semplice, un attimo di nostalgia da soddisfare e dimenticare. Era andato tutto storto, non lo aveva previsto. Le alte, gialle pannocchie lo fissavano da ogni dove, tutte uguali, tutte curiose. «Va bene, calmati, siediti». Si accovacciò a terra. Le piante formavano i vertici di un quadrato attorno a lui. La logica razionale della geometria lo rassicurò. Dal silenzio emergevano scricchiolii, stridii, fruscii, scoppiettii, frinii che lo avviluppavano in un caldo polveroso bozzolo sonoro. Ebbe l'impressione di essersi fermato e seduto solo ora, dopo qualche migliaio di anni passati in balia del mare mosso. Il suo piccolo iceberg personale si stava sciogliendo. Aveva perso il maledetto controllo senza neanche rendersene conto. Era uscito dai binari, ma quando? A Roma era annoiato, irrequieto, sì, ma padrone della situazione. Era iniziato tutto al funerale, quel volatile ficcanaso. Da quel momento in poi tutto era impazzito. No, il Marra lo aveva solo spaventato, ma era lì, in piedi, dietro l'albero, mentre osservava il fuoco e l'acqua portarsi via il passato, che aveva capito che il passato era davvero morto. E si era sbigottito, e poi rimproverato di aver ceduto allo sbigottimento, e poi, mentre era nel suo mondo complicato, quella voce e quello sguardo lo avevano fatto ripiombare lontano dal suo tempo. Troppo, tutto insieme. Non era pronto e non voleva avere a che fare con loro. Non in quel momento. Inutile negarlo, si era spaventato. Era stato facile per lui considerare con sufficienza i vecchi amici come delle perdite casuali, trascurabili nel nuovo ordine. Ora sapeva che era stata anche la paura a farglieli tenere lontano dal progetto, paura che qualcun altro si intromettesse fra lui e il Devil. Seppe anche che quello che lo spaventava di più era vedere nei loro occhi quello che aveva fatto, di assistere al suo passato trasformato in una folle parodia che tornava indietro per morderlo. Ecco qual era stato il momento della frattura, del distacco dal pack. Senza accorgersene, si era attorcigliato una foglia di Gran Turco attorno alle dita. Le aveva annodate fra loro mentre stava pensando. Mollò la presa. La punta delle dita lasciarono defluire il sangue e si sgonfiarono grate. Aveva cercato di evitarlo, aveva cercato di nascondersi e scappare, nasconderlo anche a se stesso. E c'era riuscito così bene che poi aveva sottovalutato il riavvicinamento al passato. Lo aveva colpito in faccia come un tir lanciato a tutta velocità. Era dovuto scappare. Che Dio patetico! Aveva bisogno di una guida. Dove sarebbe andato una volta fuori dal campo? E dopo? E perché? Rabbrividì mentre dalla terra si andava alzando l'odore che precede l'acquazzone. Doveva muoversi, altro che. Quando si alzò, vide nero per qualche momento. Doveva mangiare. Riprese la discesa fendendo con le braccia i filari di piante davanti a sé. Iniziò a correre, senza accorgersi delle sottili ferite che le foglie del Gran Turco gli aprivano nella pelle. Udì appena accennato un suono ritmico, un macchinario forse. Si diresse verso la sorgente del brontolio. Caddero le prime grasse gocce di pioggia e iniziarono a bagnarlo. Le vibrazioni sembravano più vicine. Le seguì. Lo scroscio si fece sempre più intenso. Il terreno divenne una ventosa di fango che lo appesantiva. Il cappellone si era afflosciato sugli occhi. Vedeva solo fango, piante, pioggia e fango. Si faceva largo a tentoni in quell'inferno bagnato e tagliente. Le sue mani si accorsero per prime che il panorama era cambiato. Fra le palpebre socchiuse distinse uno spiazzo d'erba e macchie di fiori. Poco più avanti la sagoma di un'abitazione. La vibrazione era davanti a lui, proveniva da una casa di legno. Sembrava musica. Il batterista picchiava come un dannato sulle pelli. Il basso, filtrato da un distorsore, era una scarica di cazzotti nello stomaco. Il chitarrista avrebbe potuto benissimo avere una sega elettrica in mano. Il rumore era identico. Ma era comunque musica. Attorno alla casa correva una tettoia. Drago corse a ripararsi dalla pioggia. Le assi vibravano in furiosa risonanza con i suoni lancinanti che provenivano dall'interno. C'erano delle finestre lungo le pareti della casa. Guardò nella prima. Era una cucina. Un tavolo con un vaso pieno di fiori, un caminetto. Ricordava le casette americane dei telefilm sul vecchio West. La finestra seguente era chiusa, ma appena girato l'angolo della casa, da una porta socchiusa la lava sonora si riversava all'esterno senza ostacoli. Entrò sbirciando cauto nella penombra deserta. Lo aveva preso una sensazione di déjà vu. Il ricordo di chi era stato gli scalciò in faccia. Nella stanza c'era un pianoforte nero. I tasti gialli ne rivelavano l'età. Era uguale a quello su cui aveva imparato a suonare. Una piccola libreria di legno ospitava volumetti di psicologia e dizionari di italiano-tedesco. La musica ruggiva liquefacendosi nella casa, era brutale, grezza, non c'entrava niente con i pianoforti e la psicologia. Grondava violenza e ottusità. Non sarebbe neanche dovuta esistere quel tipo di musica nel nuovo mondo. Il gruppo suonava in una stanza lì accanto. Drago mosse qualche passo in quella direzione. Si fermò sulla soglia del corridoio. Riusciva a intravedere nella stanza di rimpetto le schiene di due chitarristi e una fila di amplificatori impilati uno sull'altro a ridosso di una parete. Era un impianto audio che, con la potenza sonora che generava, sarebbe stato sufficiente a fare decollare uno stadio. Rimase un attimo pensoso. Non aveva nulla da fare lì. Avrebbe fatto meglio riprendere la strada di casa, anche se non sapeva di quale casa. Aveva la sensazione che se fosse entrato gli sviluppi non sarebbero stati soddisfacenti. Come diavolo potevano fare quella musica? Il brutal death metal era stato una mano santa quando si viveva due passi dall'inferno, una fuga catartica nell'orrore e dall'orrore. Ma in fondo non gli importava, non voleva saperlo, doveva pensare a se stesso. Tornò sui suoi passi. Le orme fangose che aveva lasciato lo guardavano indifferenti. L'acquazzone era cessato. Non vedeva l'ora di lasciarsi quei suoni alle spalle. Un brontolio rauco lo fermò dopo pochi passi. Non poteva essere vero. Qualcuno aveva iniziato a grugnire nel microfono. Era il classico ringhio gutturale tipico della tarda era musicale prima dell'avvento, irritante e patetico allo stesso tempo. Quello che dapprima lo confuse e che poi lo fece avvampare di rabbia furono le parole. Love, love, love. Non era possibile. Solo un branco di dementi avrebbe potuto smerdare quella canzone. Come osavano? L'individuo che ringhiava proseguiva imperterrito a raschiare il resto delle parole della canzone. Sembravano conati di vomito, ogni strofa era una coltellata. Drago si scaraventò come una furia nella stanza. Appena i tre suonatori videro l'ente supremo, si gettarono carponi incuranti delle chitarre e dei tamburi che trascinavano a terra prostrandosi. «Come avete osato, schifosi!» Sferrò un calcio all'amplificatore della chitarra scaraventandolo contro il muro. «Stuprare! All you need is love!» Afferrò l'asta del microfono e la scaraventò contro la batteria. Il batterista non si mosse nonostante la punta metallica si fosse conficcata nella pelle della gran cassa a pochi centimetri da lui. «Dov'è la bellezza? L'amore!» urlò a pugni chiusi. La stanza rimbombava dei fischi dei microfoni a terra, del ronzio delle chitarre e della voce di un dio incattivito e violento. La furia di Drago si raddoppiò quando vide allargarsi una chiazza di liquido giallo sotto i pantaloni di uno dei ragazzi sdraiati. Afferrò il basso per il manico usandolo come accetta per distruggere ogni cosa che gli capitasse a tiro. Quando ogni asta, amplificatore, tastiera, quando qualunque cosa fu a terra, Drago lanciò un lungo urlo, sollevò in alto il basso e lo calò con violenza, sfasciando la terra fra i presenti, che si ripararono il viso con le mani, dalle schegge che volavano come missili. Aveva dovuto fare un serio sforzo per trattenersi dall'usare qualche testa come bersaglio. Non riusciva a smettere di urlare anche se ormai gli uscivano solo fonemi senza senso. Respirando affannosamente si guardò intorno. Delle teste deformi disegnate sui muri erano impegnate in una muta e allucinata conversazione. Ne fu distratto abbastanza per calmarsi un poco. Erano orrende, deformi, avevano occhi di mosca, bocche spalancate in un urlo senza speranza. Denti metallici serrati in file meccaniche. Un perfetto contorno per quella musica. I musicisti erano ancora a terra. Non riusciva a vedergli il volto nascosto tra le mani, ma dai loro mugolii il terrore era palpabile. Lo sguardo gli corse su un metronomo caduto sul pavimento. Lo raccolse. Era un modello a batteria. Garantiva ore e ore di regolare, implacabile ticchettio. Raccolse un microfono e sistemò i due oggetti sopra un amplificatore rimasto incolume. Accese il Devil. Adesso, All You Need Is Love, me la cantate. Voglio un bel coro. Ghignò verso le nuche immobili. Regolò le pulsazioni ad una velocità di 80 battiti al minuto. Quando si fermerà il metronomo, allora vi fermerete anche voi. Avviò il battito. In ginocchio, iniziate. I tre a spalle curve si misero carponi. Iniziarono a cantare, ma non era facile riconoscere una melodia nei mugolii che mettevano. Drago si rimise il Devil in tasca e rimase a guardarli, in piedi, mani in tasca. Non era riuscito a vederne neanche uno in volto. Quando era entrato nella stanza erano girati e dal momento in cui aveva fatto irruzione nessuno aveva alzato lo sguardo. Guaivano, gemevano, biascicavano, ma dovette dargli atto che ce la mettevano tutta. Drago uscì dalla stanza. I lamenti continuavano, regolari. Andò in cucina. Aprì il frigo. Birra. Birra scura, rossa, al doppio malto, birra al limone, birra al mirtillo, birra alla birra. Fanculo, che cazzoni, come hanno fatto a sopravvivere? Credevo di averla eliminata tutta la feccia. Ho fame, non c'è un cazzo qui, solo questi idioti. Impegno, cazzo, urlò. Belate come pecore. Lanciò una birra contro il muro. Fuori la voce, ruggì rabbioso. Gli sventurati obbedirono naturalmente. Ocelot continuava la sua ricerca, sul viso il sorriso di un clown omicida. Iniziò a cantare e a seguire il coro. Ecco che ci voleva. There's nothing you can do that can be done. Basta avere il Devil. Nothing you can sing that can be sung. Forza le parole, cazzo! Nothing you can say but you can learn how to play the game, e se non imparate, peggio per voi! Il cantante evidentemente aveva studiato, conosceva il testo, cantava con voce tremula ma umana. Gli altri lo seguivano in ritardo di un istante, giusto il tempo per afferrare le parole. Un netto miglioramento rispetto ai grugniti da maiale di poco prima. All you need is love, capito? Niente, neanche un maledetto biscotto. Più forte, di più, e poi il ritmo, non sentite che un 7/4, caproni? Basta, sono stufo. Lasciamo i fringuelli cinguettare. Io ho fame. Sbatté lo sportello dell'armadietto vuoto e a grandi passi andò verso l'uscita. Non passò davanti alla stanza dove c'erano quelli che cantavano. Il metronomo avrebbe continuato a funzionare per qualche giorno. Dubitava che loro potessero funzionare altrettanto a lungo. Faccio schifo, sono sporco, affamato, incazzato. Dove vado? Non ho voglia di vedere idioti. Mirko, dove cazzo sei? Ho fame.